confondano, va bene pure a me. Sento che soffia il vento, lo prendo per un segno buono. Da ieri ho sempre freddo, è un viaggio di anni fa che non rispetto e non accolgo. E polvere mi impolveri e non piove mai. Sento che soffia il vento, lo prendo per un segno buono. Polvere mi impolveri e non piove mai. Sento che soffia il vento, lo prendo per un segno buono. Importa che siamo due nuvole, non importa, sai. Non importa che siamo altre idee, non importa, sai. È solo un altro argomento, non ha controllo, non vorrà averne. E ora tutto intorno è solo un altro argomento, non ha controllo, non vorrà averne. E non importa che siamo due nuvole, non importa, sai. Non importa che siamo altre idee, non importa, sai.